L'estate del 1988 stava finendo e gli avvenimenti che avevo vissuto non erano di certo quelli prospettati. Mancato viaggio a Los Angeles, seconda bocciatura consecutiva in terza superiore, il rifiuto personale per andare in ritiro con una squadra di calcio di C1, il Frosinone, per stare vicino alla mia ragazza dell'epoca, che poi, dopo qualche mese, avrei lasciato. Però una nota positiva c'era. Ero diventato maggiorenne e pensavo che quel traguardo mi avrebbe spalancato nuove frontiere e l'unica cosa che sempre mi consolava era ascoltare i Depeche Mode. Nonostante qualche compagno di scuola non li apprezzasse, definendo la loro musica triste ed atemporale, io li apprezzavo ancora di più. Non mi fermavo ad ascoltare solo la melodia, ma cercavo di capire anche i testi, di andare oltre le note musicali. Nei brani scritti da Martin Gore intuivo sempre la speranza e le frasi non erano mai banali. Mi trasmettevano la voglia di emergere e apprezzare quello che in quel momento avevo, che c'era sempre qualcosa da considerare. Testi apparentemente semplici, ma con dei messaggi profondi. Per quello, Wolf or Nothing, presente nell'album Black Celebration, era una delle mie preferite in quel periodo e mi rincuorava. Nonostante il titolo volesse dire mondo pieno di nulla, io la interpretavo come un bisogno di accontentarsi e apprezzare quello che abbiamo e non sempre il nulla poteva essere inteso come una mancanza, piuttosto come la speranza di cercare qualcosa per riempire un vuoto. La mia situazione era contrapposta rispetto all'estate di Virginia. Quell'anno fu memorabile per lei. Solo emozioni e soddisfazioni. Si era diplomata, anche se aveva frequentato una scuola privata per fare 2 anni in uno. Aveva assistito al concerto 101 dei Depeche Mode a Pasadena e già queste due circostanze per me avevano un valore immenso. Prima di rientrare in Sardegna, il padre Robert organizzò con la sua famiglia il più famoso coast-to-coast americano, percorrendo parte della Route 66, una strada nazionale e leggendaria, lunga quasi 4.000 chilometri, che collega Los Angeles a Chicago, talmente lunga che attraversa 3 fusi orari che rispetto all'Italia variano da 3 a 9 ore. Questa strada ha ispirato infatti tanti musicisti e attori e naturalmente i Depeche Mode. Infatti fece una versione cover di Route 66 scritta da Bobby Troup nel 1946, ma incisa per la prima volta da Nat King Cole nello stesso anno. Get your kicks on Route 66. I Depeche Mode presero ispirazione dalla versione di Chuck Berry per riprodurre Route 66. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Che pubblicarono come B-side nel 1987, nel terzo singolo, Behind the Well, dell'album Music for the Masses. Quello che mi scrisse Virginia non la percorsero tutta, ma almeno quanto bastava per godere degli immensi spazi sconfinati, fermarsi in qualche motel, mangiare delle buone bistecche texane e visitare qualche interessante cittadina, oltre a poter dire di essere stati in un posto che ha ispirato i Depeche Mode a produrre la cover Route 66 alla loro maniera. Siccome Virginia era sempre molto meticolosa e attenta ai particolari, mi fece notare che la data di inaugurazione della strada Route 66 cadeva l'11 novembre del 1936. Questo numero 11, così come il 101, non faceva altro che presentarsi in momenti inaspettati e che facevano riflettere. Per esempio, mi regalò la cassetta dei Depeche Mode proprio l'11 novembre, però del 1983. Ma non volevo credere alle coincidenze e a nessun segnale mistico. L'88 non fu quindi un anno fantastico, sotto diversi punti di vista, ma almeno l'anno scolastico si concluse meglio. Non fui bocciato per la terza volta, ma solo rimandato a settembre con 4 materie, sfiorando il tristi bocciatura. Cercavo di prepararmi all'esame di riparazione e spesso per ricaricarmi ascoltavo la mia colonna sonora di quel periodo, Shake the Desist, uno dei miei pezzi preferiti, che in seguito, caso del destino, fu determinante per alcune scelte lavorative. Gli esami di riparazione arrivarono puntuali e grazie alla benevolenza e la compassione degli insegnanti venni promosso e superai l'ostacolo, il blocco. Finalmente ce l'avevo fatta. E ripensando a Shake the Desist, che tradotto letteralmente significa superare il blocco, per me canzone più calzante in quel momento non poteva esserci.